Lo sfortunato monaco tornò da Stenio. I pastori lo avevano messo all'ombra, all'ingresso di una grotta dove le donne bruciavano resina di cedro e rami di ginepro. Questi pii montanari stavano aspettando che Magnus tornasse per dare loro l'ordine di portarlo al convento e lo avevano messo su una barella fatta con più arte e cura della prima. Avevano intrecciato rami di abete e cipresso con i loro ramoscelli perenni che formavano un letto di verde scuro per il cadavere. I bambini lo avevano cosparso di erbe aromatiche e le donne gli avevano posto sulla fronte una corona di quei fiori bianchi stellati che crescono nei prati umidi. Il convolvolo bianco e la clematis, che si arrampicavano sui lati della roccia, pendevano dalla chioma in festoni selvaggi e graziosi. Questo letto funebre, così fresco, così piacevole, sormontato da un baldacchino di fiori e immerso nei profumi più dolci, era degno di proteggere l'ultimo sonno di un giovane e bel poeta addormentato nelle braccia divine. I montanari si inginocchiarono quando videro il sacerdote inginocchiarsi. Le donne, il cui numero si era notevolmente ingrossato dalla mattina, iniziarono a recitare il loro rosario e tutti si prepararono a seguire il monaco e il cadavere fino alla porta dei Camaldoli e a tornare sul bordo del lago per assistere al funerale nel cimitero dall'altra parte. Ma quando, dopo una lunga attesa, videro il sole tramontare verso l'orizzonte, senza che Magnus dicesse loro di rimuovere il corpo, senza che i monaci, vestiti con i loro cammelli neri coperti di ossa e lacrime, gli venissero incontro, si stupirono e si azzardarono a interrogarlo. Magnus li guardò confusamente, cercò di rispondere e balbettò parole incerte. Allora, vedendo l'entità del suo dolore e temendo di affliggerlo ulteriormente incalzandolo con domande, uno dei più vecchi boscaioli della valle decise di andare al convento con i suoi figli e chiedere ordini al priore. Dopo un'ora il boscaiolo tornò, silenzioso, triste e raccolto. Non osò parlare di fronte a Magnus e, mentre tutti gli occhi lo interrogavano, fece segno ai suoi compagni di seguirlo da parte. Tutti coloro che erano intorno al cadavere, spinti dalla curiosità, si allontanarono silenziosamente e lo raggiunsero a distanza. Lì appresero con sorpresa, con terrore, del suicidio di Stenio e del rifiuto del priore di seppellirlo in terra santa. Se al priore era servita tutta la fermezza di uno spirito generoso, tutto il calore di un'anima che perdona per non disperare della salvezza di Stenio, quanto più questi uomini semplici e gretti erano inorriditi di fronte a un crimine così severamente condannato dalle credenze cattoliche. Le donne anziane furono le prime a maledirlo. «Si è ucciso l'empio!» gridavano. «Che crimine aveva commesso? Non merita le nostre preghiere! Il priore gli rifiuta una tomba nella terra consacrata! Deve aver fatto qualcosa di abominevole, perché il priore è così clemente e così santo!» Aveva una ferita vergognosa nel cuore, quest'uomo che disperava del perdono e si faceva giustizia da solo. Non compatiamolo. Inoltre è vietato pregare per i dannati. Lasciateci andare, lasciate che il monaco faccia il suo lavoro, spetta a lui sorvegliarlo durante la notte. Ha il potere di pronunciare esorcismi. Se il diavolo viene a reclamare la sua preda, lo evoca. Andiamo. Le ragazze spaventate non esitarono a seguire le loro madri e più di una, mentre tornavano alle loro case, credettero di aver visto una figura bianca attraversare le profondità del boschetto e di aver udito sull'erba inumidita dalla rugiada i passi vaganti di un'ombra lamentosa che mormorava tristemente: «Voltati, ragazza, e vedi il mio volto livido. Sono l'anima di un peccatore e sto andando al giudizio, prega per me». Si affrettarono e arrivarono pallide e palpitanti alla porta delle loro casette, ma la sera, mentre si addormentavano, una voce debole e misteriosa ripeteva al loro capezzale: «Pregate per me». I pastori, abituati alle veglie notturne e alla solitudine dei boschi, erano meno suscettibili a questi terrori superstiziosi. Alcuni di loro andarono a raggiungere Magnus e decisero di tenere con sé il morto. Piantarono grandi torce di abete resinoso ai quattro angoli della barella e aprirono i loro elmi di pelle di capra per proteggersi dal freddo della notte. Ma quando le torce furono accese, cominciarono a brillare di rosso vivo sul cadavere. Il vento che li agitava faceva passare bagliori sinistri sul volto, che era sull'orlo della dissoluzione, e a volte il movimento della fiamma sembrava comunicarsi ai lineamenti e alle membra di Stenio. Sembrò loro che stesse aprendo gli occhi, che agitasse una mano convulsa, che stesse per alzarsi. Lo spavento le colse, e senza osare ammettere l'una con l'altra il loro infantilismo, adottarono tacitamente il consiglio unanime di ritirarsi. Il monaco, la cui presenza le aveva per un attimo rassicurate, cominciò a spaventarle più del morto stesso. La sua immobilità, il suo silenzio, il suo pallore e qualcosa di oscuro e terribile nel corrugamento della sua fronte calva e lucida gli davano l'aspetto di uno spirito delle tenebre piuttosto che di un uomo. Pensarono che il demone avesse preso questa forma per dannare il giovane, per gettarlo nel lago, e che ora fosse lì a sorvegliare la sua preda in attesa dell'ora di mezzanotte, quando si fossero compiuti gli orribili misteri del sabato. I più coraggiosi si offrirono di tornare il giorno dopo all'alba per scavare la fossa e calare il cadavere. «È inutile!» rispose uno dei più sgomenti, e questa risposta fu compresa. Si guardarono in silenzio e il loro pallore li spaventò a vicenda. Scesero a valle e si separarono con passo vacillante, pronti a prendersi per spettri. 6. Lelia. Lelia e Trenmore si stavano avvicinando alla valle. Con l'avanzare del giorno si affrettarono i cavalli e le guide. Volevano arrivare prima di sera. La carrozza, veloce, volava nella polvere e le pianure scomparivano dietro di loro come nuvole spazzate via dal vento. All'improvviso un cavallo cadde e la carrozza gli rotolò addosso e si ribaltò violentemente. Trenmore rimase gravemente ferito. A Lelia non fu fatto alcun male. Forse il divino aveva i suoi scopi. Trenmore fu portato in una casa vicina alla strada e fu prontamente soccorso. Non appena si fu ripreso e la ferita fu medicata, prese la mano di Lelia. «Vai, sorella, vai!» disse. «Non perdere un'ora, un momento! L'ultimo giorno sta per finire. Se uno di noi non fosse ai Camaldoli stasera, chissà quali sarebbero i pensieri di Stenio. Vai da nostro figlio, lasciami qui, posso fare a meno di te. Verrai a trovarmi lì domani, più tardi, quando potrai. Non si tratta di me, vattene!» Lelia non esitò. La carrozza era in panne, fece portare un cavallo, lo montò frettolosamente e presto scomparve nella polvere dell'orizzonte. Il sole era tramontato quando raggiunse il piano della valle dei Camaldolesi. La sua gente era rimasta molto indietro, il suo cavallo fumante inciampava di tanto in tanto nei rovi del bosco ceduo. Ansimante, con i capelli in disordine, avanzava senza pietà, non si fermava davanti a nessun ostacolo. Passava a caso il presunto guado dei fiumi, attraversava i cespugli invece di aggirarli e non guardava nemmeno dietro di sé i pericoli che aveva appena affrontato con la follia di una fiducia sublime. Incerta, all'ingresso di una radura tagliata da due strade simili, fu costretta a fermarsi e a chiedere a un taglialegna indicazioni per il convento. «Da questa parte!» disse il taglialegna indicando la destra. «Ma se intendete entrare nel monastero questa sera, vi consiglio di avere un ordine del Papa. I cancelli sono chiusi. Le campane non hanno suonato per tutto il giorno. Il priore è chiuso nella sua cella e tutti i monaci sono in ritiro. Non si parla con nessuno. L'angelo della morte ha fatto una croce sulla porta ieri sera.» Lelia, spaventata, interrogò il taglialegna. Seppe che Stenio era morto. Cercò di dubitare e disperare. Un gruppo di montanari venne a confermare le parole del primo e Lelia cadde immobile tra le loro braccia. Essi la portarono nella loro capanna. Magnus è rimasto solo accanto al cadavere e non si era accorto della defezione dei pastori. Era ancora in ginocchio, ma non pregava, non pensava. Le forze erano venute meno. Sentiva la sua esistenza solo attraverso il dolore acuto della fronte che aveva scosso e quasi frantumato sul pavimento della cella del priore. Questa commozione fisica, unita alle terribili emozioni del suo animo, lo aveva fatto sprofondare in un crollo che assomigliava all'imbecillità. A poco il dolore al cranio divenne così forte da spingerlo a toccarlo con la mano. Il sangue vivo si attaccava ai capelli. Lui si guardò la mano rossa senza capire che era insanguinata. Solo la sensazione di calore umido e l'odore del sangue produssero una sorta di contrazione nei muscoli delle dita e dilatarono le narici, come sarebbe accaduto con l'ebbrezza del vino o dei sensi. L'anima era intorpidita, forse morta. L'animale doloroso, feroce e avido, che si cela sotto il cilicio del monaco, si stava risvegliando con il suo istinto carnivoro e il suo selvaggio appetito di piacere. Aprì gli occhi vitrei come quelli di un cadavere e sussultò come se il galvanismo lo avesse colpito. Ma quando vide davanti a sé la pallida figura di Stenio che dormiva il sonno degli angeli, si fermò, sorrise orribilmente al suo bianco sudario e alla sua corona di fiori e mormorò con voce commossa: «Oh donna, oh bellezza!» Poi prese la mano del cadavere. E il freddo della morte calmò il suo delirio e dissipò le illusioni ingannevoli della febbre. Riconobbe che non si trattava di una donna addormentata, ma di un uomo disteso sulla bara, un uomo di cui si rimproverava la perdita. Si guardò intorno e non vedendo altro che i fianchi neri della roccia, dove tremolava la fiamma delle torce, non sentendo altro che il vento che ululava tra i larici, sentì tutto il terrore della solitudine, tutti i terrori della notte cadergli sul cranio come una montagna di ghiaccio. Gli sembrò di vedere qualcosa che si muoveva e strisciava sulla roccia accanto a lui, chiuse gli occhi per non vederlo, li riaprì e guardò involontariamente. Vide una figura spaventosa, immobile e nera al suo fianco. Lo guardò per quasi un'ora, senza osare fare una mossa, trattenendo il respiro per paura di suscitare l'attenzione di quel fantasma pronto ad alzarsi e a camminare verso di lui. La torcia di resina che proiettava il profilo di Magnus sulla parete della grotta si spense e il fantasma scomparve senza che il monaco si rendesse conto che si trattava della sua ombra. Passi leggeri sfiorarono i cespugli della collina. Forse era un camoscio che si avvicinava curioso alle torce. Magnus si fermò e lanciò uno sguardo tremante lungo il sentiero che portava a valle. Gli sembrò di vedere una donna bianca, una donna che vagava da sola nella notte. Il desiderio irrequieto gli fece balzare il cuore con violenza. Si alzò, pronto a correre verso di lei. Ma una sciocca paura lo trattenne. Era uno spettro che era venuto a chiamare Stenio, un'ombra che era uscita dal sepolcro per ululare nell'oscurità. Si nascose il viso tra le mani, si avvolse la testa nel cappellino e si rannicchiò in un angolo, deciso a non vedere né sentire nulla. Quando nessun altro rumore giunse alle sue orecchie, si sentì un po' rassicurato e alzò lo sguardo. E vide Lelia inginocchiata accanto a Stenio. Il monaco voleva urlare, ma la lingua gli si incollò alla bocca. Voleva fuggire e le sue gambe diventavano più fredde e immobili del granito della roccia. Rimase con gli occhi spalancati, la mano aperta, il viso ombreggiato dalla cuffietta. Lelia era china sul letto funebre. I suoi lunghi capelli srotolati dall'umidità le ricadevano sulle guance pallide. Sembrava morta come Stenio. Era la degna fidanzata di un cadavere. Aveva ascoltato i discorsi dei pastori, aveva evitato le loro cure e consolazioni, aveva voluto baciare la polvere di Stenio. Guidata dal sinistro faro acceso davanti alla grotta, era venuta da sola, senza paura, senza rimorsi, forse senza dolore. Tuttavia, all'aspetto di quella bella fronte coperta dalle ombre della morte, sentì la sua anima ammorbidirsi. Una tenera pietà ammorbidì la durezza di quell'anima oscura e calma nella disperazione. «Sì, Stenio», disse, senza preoccuparsi o accorgersi della presenza del monaco. Mi fai compassione perché mi hai maledetta. Ti compatisco perché non hai capito che Dio nel crearci non aveva risolto l'unione dei nostri destini. So che pensavi che provassi piacere nel moltiplicare le tue torture, pensavi che volessi vendicare su di te i dolori e le delusioni dei miei primi anni, pensavi che accettassi i tuoi giuramenti con disprezzo e indifferenza per compensare la mia vanità di tutti i tradimenti che gli uomini mi avevano inflitto. Oh, no! Ti sei sbagliato, Stenio, e ti perdono l'anatema che hai pronunciato contro di me. Colui che giudica i miei pensieri prima ancora che io possa prevederli, colui che sfoglia tutte le ore il libro della mia coscienza e ci legge inequivocabilmente i misteriosi disegni non ancora scritti, lui, Stenio, non ha accettato le tue minacce e non le eseguirà. Non ti punirà perché sei stato cieco, non punirà la tua debolezza perché hai rifiutato di confidare in una saggezza che non era tua. Hai pagato troppo caro la luce che è venuta a illuminare i tuoi ultimi giorni perché egli ti rimproveri di aver vagato a lungo nelle tenebre. La conoscenza dolorosa e terribile che porti con te non ha bisogno di espiazione, perché il tuo labbro è appassito per aver assaggiato il frutto che hai raccolto. Ti ho amato, Stenio, senza poterti consolare. Ho ammirato, senza poterti rispondere, quel bisogno indefinito di espansione e di devozione che ti divorava il sangue e ti bruciava il cervello. Mi rammaricavo delle prove implacabili che mi avevano convinta della mia impotenza, ma non sarebbe stata un'impietà e una vile menzogna negarle. Se ti avessi detto le ferite che ti ho mostrato, le ferite che hai contato non sono incurabili. Speriamo che la fiducia e l'abnegazione reciproca riscaldino il mio cuore indebolito. Speriamo che appoggiandomi a te recuperi il senso e il valore delle sofferenze che oggi accetto senza comprenderle. Avrei mentito. Stenio. Avrei meritato il tuo disprezzo e la tua rabbia non sarebbe riuscita a scendere abbastanza in basso per flagellare la mia ipocrisia. È stato per la mia franchezza e lealtà che hai invocato su di me i castighi di Dio che lui riserva ai malvagi. È perché ho confessato davanti a te senza arrossire o confondermi le infermità della mia natura che hai chiesto alla folgore di colpirmi come se avessi abusato del mio potere. Avevo incontrato sulla mia strada molte anime infedeli che mi avevano ingannata. Il mio orecchio si era stancato di ascoltare promesse impotenti. Più generosa e coraggiosa rifiutai il tuo affetto che non potevo ricompensare. Ho sacrificato alla sicurezza del tuo futuro le gioie perfide e fugaci di qualche giorno. Non ho voluto impegnare un bene che non possedevo, perché il mio cuore aveva consumato tutta la sua credulità senza ritorno. Sotto la terra che tu calpestavi con piede veloce e fiducioso, vedevo la lava spuntare dal vulcano che avrebbe disperso lontano l'edificio delle tue ambizioni. Per conservare e fissare il tuo amore avrei dovuto essere degradata e degradante. I miei sensi gelidi non hanno potuto fare nulla per i tuoi piaceri. Se avessi provato a fremere sotto il tuo abbraccio, povero Stenio, Lelia, con una smorfia di voluttà che comandava ai suoi occhi di sorridere e di giocare all'estasi. Lelia, che come avevi intuito non sarebbe stata altro che un mostro orrendo, il ridicolo simulacro di una cortigiana. Ma Dio, ne sono fermamente convinta, ci riunirà nell'eternità. Seduti insieme ai suoi piedi saremo testimoni del suo consiglio e allora sapremo perché ci ha separati sulla terra. Quando leggerai sulla sua fronte radiosa il segreto delle sue volontà impenetrabili agli occhi dei mortali, la tua rabbia e il tuo stupore saranno come non fossero mai esistiti. Allora, Stenio, non cercherai più di odiarmi. Non accuserai più la mia ingiustizia e la mia crudeltà, quando Dio, dando a ciascuna di noi la parte che si merita, distribuirà le nostre fatiche secondo le nostre forze. Capirai, mio amato, che qui non potremmo seguire la stessa strada, né camminare verso la stessa meta. I dolori che ci ha inviato non sono stati gli stessi. Il severo maestro che entrambi abbiamo servito ci spiegherà il mistero delle nostre sofferenze, aprendo davanti a noi la prospettiva luminosa di un'effusione eterna. Ci dirà perché si è compiaciuto di preparare la riunione delle nostre due anime per vie oscure che il nostro occhio non sospettava. Ti mostrerà, Astenio, nella sua sanguinante nudità, il mio cuore al quale hai imputato disprezzo e durezza, il terrore che hai provato quando hai sentito le mie parole, l'umiliazione che ha offuscato i tuoi occhi quando ho confessato di non poterti amare, la confusione tremante dei tuoi pensieri si trasformerà in una seria compassione. Lelia, che credevi tanto superiore a te, che disperavi di raggiungere, Lelia si abbasserà davanti a te, dimenticherai come lei l'ammirazione e il rispetto con cui gli uomini circondavano i suoi passi, saprai perché sono andata da sola e senza mai chiedere aiuto. Confusa sotto l'occhio di Dio, in una beatitudine permanente, ognuna di noi porterà a termine con coraggio il compito che ha ricevuto. I nostri occhi, incontrandosi, raddoppieranno la nostra fiducia e la nostra forza. Ricordo delle nostre miserie passate. Svanirà come un sogno e ci chiederemo se abbiamo davvero vissuto. Consolati, Stenio. Il tuo processo è finito e il mio continua. Non sentire più il ronzio della folla imbecille nelle vostre orecchie, nelle tue orecchie, non avere più davanti a te lo spettacolo sgradito di gioie che mentono a se stesse e si stordiscono con il rumore delle loro bugie. Ora tocca a me invocarti nelle mie preghiere. Tocca a me implorare la tua potenza e la tua saggezza perché conosci il nulla dei piaceri che prima sospiravi. Guardi con pietà alle grandezze e alle glorie che ti abbagliavano. Non desideri più, ora che godi, la presenza di Dio, sufficiente per le tue estasi, i sorrisi che mi chiedevi in ginocchio, le carezze che avresti pagato con il tuo sangue non sono ora oggetto di scherno per la tua luminosa chiaroveggenza. No, no, sono sicura che da quando sai. Da quando la mano divina, passando il dito sulla tua palpebra, ti ha aperto gli occhi. La tua anima, che era irritata dalla sua ignoranza e debolezza, ora è indulgente e serena. Il tumulto delle nostre speranze, le ambiziose visioni dei nostri sogni sono davanti a te come davanti a Dio, l'espressione incompleta ma sincera della nostra attuale umiltà. Se aspiriamo così in alto è perché la nostra anima ricorda la sua origine. È perché soffre nel suo involucro terreno, è perché sente che per ritrovare il suo slancio e la sua forza deve spogliarsi delle fasce in cui è avvolta. Bene, allora, Stenio, mi hai preceduta. Dio ti preferisce a Lelia, visto che ti chiama per primo. L'angoscia e lo sfinimento della tua morte prematura hanno meritato da lui una ricompensa più pronta dell'isolamento e della pazienza di Lelia. Non biasimo la sua indifferenza, non mi lamento, senza dubbio ha misurato il pellegrinaggio al vigore del pellegrino, ha avvicinato la città celeste ai tuoi piedi vacillanti, ha piegato il ramo davanti alla tua mano vacillante, benedetto Stenio. Ora puoi scrollarti la polvere dalle scarpe, puoi sederti e riposare. Spetta a te intercedere presso il maestro affinché io possa sedere al tuo fianco.